24 mattino di Alessandro Milan. Eccoci alle 7:23 minuti, cari ascoltatori, in diretta fino alle 9 anche oggi, nell'ultima puntata settimanale di 24 mattino. Saluto Valeria Bernardi, anche oggi conclude la settimana con noi in regia. Di cosa parliamo nel sondaggio? Parliamo di una proposta di legge che riguarda la scuola. Questa è le 8:30. La proposta è quella di aprire anche ai privati il sostegno per i ragazzi disabili a scuola. Che ne pensate? Ne parliamo alle 8:30. Voi votate il nostro sondaggio su radio24.it e andiamo a leggere i giornali. In primo piano. Venerdì 27 maggio. Il Sole 24 Ore apre sulla relazione nell'assemblea di Confindustria del presidente Emma Marcegaglia. 10 anni persi, ora agire subito, questo è il titolo di prima pagina. Tutti gli altri quotidiani scelgono di aprire sulle dichiarazioni, o meglio su ciò che ha fatto ieri il premier Berlusconi, che ha parlato in sede di G8 avvicinato al presidente americano Obama per parlare male dei giudici in Italia. Berlusconi, polemica al G8, così titola il Corriere. Per Repubblica, Berlusconi al G8 denigra l'Italia. Per il Messaggero, in Italia dittatura dei PM, è la frase che Berlusconi ha riferito a Obama. Per la Stampa, uguale titolo, in Italia dittatura dei giudici. Il Fatto Quotidiano mette la fotosequenza dell'incontro col titolo "Quest'uomo sta male", ovviamente si riferiscono a Berlusconi. Per Libero invece, quanti volta Gabbana sulla politica, sono Italo Bocchino, Gianfranco Fini, l'ex presidente di Confindustria D'Amato, Chiara Moroni, Beppe Pisanu, Massimo Moratti, questi i volta Gabbana per il giornale di Feltri e Belpietro. Vabbè, vedremo altre aperture, io però voglio andare alle segnalazioni prima della pubblicità. La prima la troviamo, riguarda anche questa, il mondo della scuola, un po' su tutti i giornali. Il Corriere vi dedica mezza pagina, Libero una pagina, il Giornale pure. Scuola, se il diritto ai Bermuda diventa un caso per la polizia. È una vicenda che viene da Trieste, dove un preside, Raffaele Marchione, ha, con una circolare, vietato l'uso dei Bermuda in classe, cioè i pantaloni insomma che arrivano al ginocchio per i ragazzi, e i ragazzi che hanno fatto? Hanno chiamato la polizia, con tanto di arrivo della Digos a Trieste, a scuola. Il preside vieta i calzoni corti e i ragazzi chiamano gli agenti. Libero la mette molto dura, il vizio di portare la Digos in classe anche per un paio di calzoni corti. Mentre per il Giornale, con un intervento di Marcello D'Orta, calzoni corti a casa, finalmente un preside che rispetta la scuola. E mentre la seconda segnalazione riguarda la vicenda di Doministro Scan, che sapete agli arresti domiciliari, è solo che ora tutti i giornali mettono le foto di questa dimora dove si trova l'ex direttore del Fondo Monetario Internazionale accusato di stupro a New York. Ecco la prigione di Strauss-Kahn, per esempio la trovo su Libero o sul Quotidiano Nazionale, o meglio sul Giornale o sul Quotidiano Nazionale, sul Corriere una pagina. La casa da $50,000 al mese, pagati dalla moglie, Un loft con cinema, palestra, sauna. Vicini di casa sono Robert De Niro, Gwyneth Paltrow, Leonardo DiCaprio, Justin Timberlake, J.A.S. $50,000 al mese, ma pare che addirittura il prezzo originale fosse $60,000 al mese, ma la moglie abbia strappato uno sconticino, $50,000 al mese. Ci sono delle foto, una casa invidiabile. Certo, però, in quella casa Doministro Scan, di cui potrete vedere tutte le foto sui giornali, a Manhattan e agli arresti domiciliari per accuse pesantissime. Un loft con cinema, palestra, ecco la prigione dorata di Strauss-Kahn sui giornali. In primo piano. Eccoci qui, le 7:37 minuti. Allora, la notizia politica più sviluppata dai giornali è il fuori programma che ieri il premier Berlusconi ha fatto al G8, quando prima dell'inizio del G8 si è avvicinato al presidente americano Obama, iniziando a dirgli "How are you?", E poi gli ha parlato di che cosa? In Italia i PM sono di sinistra, c'è una dittatura dei giudici, argomenti che non sono una novità per Berlusconi come esternazioni, ma certo è una novità il consesso in cui ne ha parlato e soprattutto l'interlocutore, tanto che Gerardo Pelosi a pagina 17 del Sole, Berlusconi, Obama, PM di sinistra, scrive: c'era tutto nello sguardo di Obama, l'incomprensione, lo smarrimento, lo stupore, gli occhi mobili del presidente americano che cercavano di catturare qualche bandolo di logica nel profluvio di quelle strane parole del premier italiano Berlusconi, che gli aveva appena posato una mano sulla spalla intorno al tavolo del G8. E lì appunto dice Pelosi parole che non avevano come focus la Libia, le primavere arabe, l'economia globale, ma la situazione politica italiana, la nuova maggioranza, i 31 processi che l'hanno visto sempre assolto. E scrive dunque Gerardo Pelosi dello stupore che effettivamente, almeno all'inizio, quando Obama ha risposto tutto ok alla prima domanda "How are you?", poi è rimasto un po' basito, ha chiamato l'interprete perché evidentemente non capiva come mai il premier italiano lo avesse avvicinato. Anche per il Corriere, Berlusconi fuori programma con Obama, in Italia dittatura dei giudici di sinistra. Ci sono giornali come il Fatto Quotidiano che attacca duramente, mette in prima pagina la fotosequenza con il titolo "Quest'uomo sta male, Berlusconi in al vertice del G8 con un agguato a Obama". Ezio Mauro in prima pagina di Repubblica addirittura scrive: quel premier ha evidentemente perso la testa, questo nell'editoriale dal titolo "Fango sul paese". Mentre sul Giornale, Adalberto Signore a pagina 8 ne fa il resoconto di questo avvicinamento di Berlusconi a Obama, di questo sfogo, come titola il Giornale. E poi Berlusconi, quando il portavoce Bonaiuti gli ha riportato subito le agenzie di stampa che parlavano già delle polemiche che ci sono state per questo fuori programma, Berlusconi avrebbe reagito così: cosa c'è? Non ho più neanche il diritto di spiegare ai leader stranieri qual è la situazione italiana? Per carità, non è assolutamente pentito per aver avvicinato Obama. Chi invece manifesta il gelo, così racconta almeno La Stampa, pagina 11, è il presidente della Repubblica Napolitano, che tra l'altro oggi vedrà anche lui in un summit Barack Obama. Gelo di Napolitano alla vigilia del summit con Barack, una distanza siderale dal premier, ma si legge in questo articolo: non tornerà sulla sortita di Berlusconi, perché la linea, secondo Amedeo La Mattina sulla Stampa, da parte del capo dello Stato è quello di rappresentare l'Italia come se fosse rappresentare l'Italia in modo totalmente diverso in questo incontro con Obama. Tutto questo al Colle non interessa affatto, con tutte queste analisi e lucubrazioni, figuracce, Napolitano non vuole averci a che fare e metterà una distanza siderale tra il Quirinale e Palazzo Chigi. Non c'è traccia di un suo possibile intervento, come viene chiesto da alcuni in Italia. Insomma, una vicenda che ha suscitato molte polemiche, un fuori programma che ha suscitato un dibattito politico. Poi è l'ultimo giorno di campagna elettorale, fortunatamente, aggiungo io, per quel che riguarda i ballottaggi. Tra l'altro si registra soprattutto a Milano un bossi, lo abbiamo sentito anche nel giornale radio, che riguarda quello che è successo ieri tra Berlusconi e Obama, ha detto: Silvio è troppo nervoso. Ma certo, la Lega rilancia sulla questione ministeri. Si pensava che potesse essere accantonata un pochino dopo le prime dichiarazioni, poi parzialmente rientrata, invece il ministro Calderoli ha detto: o i ministeri si spostano, o il decentramento dei ministeri, oppure iniziamo una rivolta fiscale. Questo è il succo del discorso. Calderoli lo fa anche in un'intervista al Corriere della Sera, pagina 9. Cambieremo questo Stato. E sentite anche l'annuncio: voglio spostare anche il Colle. Cioè vogliamo spostare anche la presidenza della Repubblica da Roma. Sembra veramente un po' forte come dichiarazione in questa intervista rilasciata a Marco Cremonesi. Tanto Calderoli dice: non è uno scherzo, noi siamo il partito del cambiamento, per chi non vuole cambiamenti non è mai il momento giusto. Io capisco Alemanno, capisco la Polverini che sono arrabbiati, perché loro capiscono i vantaggi di avere un ministero a differenza di Formigoni. Quindi qui si toglie anche un sassolino dalla scarpa nei confronti del presidente della Lombardia, Calderoli. E poi dice: Non è uno scherzo, noi continueremo su questa cosa, per ora sposteremo qualche dicastero, qualche dipartimento. Avevamo chiesto le riforme e le semplificazioni, probabilmente porteremo al sud anche le pari opportunità della Carfagna. E poi, eccolo qui, non è uno scherzo, si ricorda cosa dicevano gli americani? Niente tassazione senza rappresentatività? Noi la cambieremo così, no representation, no taxation, cioè non fate rappresentatività, non decentrate, non paghiamo le tasse. Ma scusi Calderoli, torna a minacciare la rivolta fiscale? A buon intenditor, lascia cadere lì il ministro Calderoli. Dunque, su questo tema la Lega insiste. Frattini, ministro degli esteri, intervistato da Mario Aiello sul Messaggero, dice: un grave errore della Lega spostare i dicasteri, non sposta voti. La Farnesina a Milano io non ce la vedo proprio. Comunque, il dato di fatto è che il tema rimane ancora attuale. Sulla questione della campagna elettorale, beh, guardate, gli ultimi scampoli di campagna elettorale, la notizia più sviluppata è il fatto che è saltato il concerto di Gigi D'Alessio, che doveva fare un concerto a Milano per Letizia Moratti. Se canti per Letizia muori. Queste le minacce ricevute molto e anche su Facebook. Gigi D'Alessio, che credo oggi farà il concerto a sostegno del candidato del centrodestra a Napoli. Insomma, Gigi D'Alessio, clima teso, non canto, se n'è andato via. Ha chiamato Letizia Moratti dicendo che la situazione era tesa, era meglio andarsene. Pare, secondo questo retroscena del Corriere, che a Bossi e ai leghisti non fosse davvero piaciuto l'invito a un cantante che certo non è l'espressione della milanesità per il concerto finale. Addirittura pare che ci sia stata questa beffa per cui i fan di Gigi D'Alessio, che erano in attesa del concerto di Gigi D'Alessio in Duomo, alla fine hanno intonato dei cori Pisapia, Pisapia, perché quando hanno capito che Gigi D'Alessio non veniva più perché è minacciato, perché è osteggiato anche dalla Lega, eccetera. Insomma, è finita questo concerto, o meglio, non è neanche iniziato il concerto di Gigi D'Alessio per il candidato sindaco di Milano, Letizia Moratti. In primo piano. L'apertura del Sole 24 Ore è dedicata all'assemblea di Confindustria. 10 anni persi, ora agire subito. Questo è il titolo di apertura, come detto, di prima pagina. Per l'Italia 10 anni di crescita persi. Questo è il sunto del discorso del presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia. Il tema della crescita è il filo rosso, racconta Nicoletta Picchio, delle 38 pagine della relazione, che ha puntato sulle semplificazioni, le liberalizzazioni, le infrastrutture, la necessità della riforma fiscale. Certo, anche un appello molto, molto forte alla politica, con questa frase, no? Per l'Italia 10 anni di crescita persi. E tra l'altro anche, ma tra poco lo vedremo perché è molto sviluppato sul Foglio, questa frase finale, questo concetto finale, pronti a batterci anche fuori dalle imprese, che ha aperto un dibattito su cosa voglia dire, sull'interpretazione di questa frase pronunciata dal presidente di Confindustria. Tra l'altro, su questo tema c'è un corsivo in prima pagina del direttore del Sole 24 Ore, Roberto Napoletano, dal titolo "Non siamo condannati al declino". Parte Napoletano dal ricordare le frasi di Giuseppe Di Vittorio alla conferenza della CGIL nel febbraio del 1950. Racconta di uomini come Di Vittorio, Valletta, Menichella, Vanoni. Uomini che non avevano niente, scrive il direttore del Sole, partivano dalle macerie della guerra, hanno fatto il miracolo economico italiano. Mezzo secolo dopo i figli di quei padri devono essere in grado di ripetersi, costi quel che costi, guardando in faccia la realtà, individuando e colpendo anomalie e distorsioni non più tollerabili, bandendo egoismi personali, miopie diffuse, soprattutto devono farlo insieme. Nulla ci può far credere che l'Italia possa impunemente accettare di essere condannata al declino. Dicevo di quella frase che è stata sviluppata e viene sviluppata nell'editoriale di prima pagina del Foglio, che si concentra appunto sull'assemblea di Confindustria. Marcegaglia incalza il governo, replica acida alla Fiat e vagheggia un impegno civico delle imprese. Ecco, due sono gli aspetti che in questo fondo di prima pagina del Foglio si vogliono mettere in risalto del discorso di Emma Marcegaglia. Beh, intanto Sarà presto ricordata, sarà ricordata questa ultima relazione della Marcegaglia, racconta il Foglio, soprattutto per un fuori testo. Ovviamente la diatriba si riferisce a che cosa? Alla diatriba plateale tra Marcegaglia e la Fiat, all'intenzione del Lingotto di lasciare definitivamente Confindustria. Il presidente uscente ha risposto: non esistono soci di serie A e di serie B, noi non agiamo sotto pressione di nessuno, sono finiti i tempi in cui poche aziende decidevano l'agenda di Confindustria. Il Foglio racconta l'imbarazzato presidente di Fiat, John Elkann, che ha cercato di rassicurare sulle intenzioni del Lingotto, ma il battibecco con la Marcegaglia è proseguito mentre parlava il ministro dello sviluppo Romani. Il secondo aspetto, appunto, e le attenzioni degli addetti ai lavori e degli osservatori si sono poi appuntati sulle ultime parole della Marcegaglia, quelle che vi anticipavo. Un avviso finale: come imprenditori noi facciamo il nostro mestiere, ma attenti, nei momenti difficili della vita del paese come questo, noi saremo pronti a batterci per l'Italia anche fuori dalle nostre imprese. Che vuol dire? Si chiede il Foglio. C'è chi all'interno della stessa Confindustria ha intravisto aspirazioni politiche di Marcegaglia, magari terzopoliste, chi ha scorto i prodromi di una sorta di partito degli imprenditori, come quello vagheggiato da Luca Cordero di Montezemolo. Dall'entourage marcegagliano, comunque, scenari smentiti, ma le parole della Marcegaglia hanno innescato un dibattito. Dunque, questo, trovate i commenti, gli sviluppi su tutti i quotidiani su questo tema. Io voglio andare alle altre notizie. Beh, trovate moltissimo, in realtà molti giornali ci aprono sulla vicenda dell'arresto di Ratko Mladic. Ratko Mladic è considerato, associato allo sterminio di Srebrenica nel 95, nel luglio del 95, con migliaia di musulmani uccisi in pochi giorni. Ci sono tanti ritratti di Ratko Mladic. Massimo Nava, per esempio, ne fa uno molto duro, molto crudo, a pagina 3 del Corriere della Sera, quando dice che Ratko Mladic viene associato e paragonato al Göring o all'Himmler del Terzo Reich, vale a dire il militare che applica fino alle estreme conseguenze la visione ideologica dei suoi superiori politici, una visione che nel caso della Bosnia era la soluzione finale per i musulmani. E tra l'altro tutti i giornali raccontano di come siano stati 16 anni di fuga, un po' per modo di dire, nel senso che tutti sapevano dove si trovava, addirittura secondo la stampa fino a poco tempo fa andava allo stadio quando voleva, tutte le domeniche, è stato fermato con la sua carta d'identità, con il suo nome, anche se è scaduta da un pezzo. Insomma, come in altre situazioni simili, è stato un arresto abbastanza annunciato, un po' un arresto a orologeria. Comunque ne parleremo alle 8:20 nell'intervista di questa vicenda, quando avremo l'ex presidente della Corte Penale Internazionale, del Tribunale Internazionale all'Aia, che processerà poi Ratko Mladic. Ora, se ci sarà, come presumibile, l'estradizione, vale a dire il professor Fausto Pocar. E ne parleremo alle 8:20. Qualcosa di cronaca ancora prima di concludere? Beh, intanto il giornale lancia a metà pagina, con mezza pagina, pagina 6, una notizia, lo fa in maniera molto, con grande certezza: la RAI si libera di Santoro, Michele tratta con la 7. A dire la verità il titolo è: Michele chi tratta con la 7? Secondo il giornale, secondo Maurizio Caverzan, sarebbe ormai addirittura d'arrivo la chiusura del rapporto tra Santoro e la RAI, anche tra Fabio Fazio e la RAI, e Santoro e Fabio Fazio insieme a Littizzetto, Fazio porterebbe anche Saviano, Vauro, Travaglio, insomma tutti per le due trasmissioni traslocherebbero su la 7. Il giornale la dà come una notizia abbastanza certa. E poi c'è molto di cronaca anche sull'arresto di Cosima. Avete sentito l'omicidio di Sara Scazzi? Beh, un clamoroso colpo di scena, anche se la zia di Sara era abbastanza sospettata da tempo, ma ora è stata portata in carcere secondo i PM di Avetrana. Ebbe un ruolo attivissimo nell'uccisione di Sara Scazzi, non solo. Secondo i PM, Sara Scazzi fu uccisa dalla cugina Sabrina. E poi tutto questo fu fatto davanti alla madre di Sabrina, Cosima. E poi, quando uccisero Sara Scazzi, svegliarono il padre di Sabrina, Michele, che dormiva, per dire: ora aiutaci ad occultare il cadavere. Sabrina la strangolò mentre lei guardava e poi portarono insieme il corpo in garage. Questa è la nuova versione che ha portato, con anche l'uso dei tabulati telefonici, di intercettazioni, ha portato all'arresto, il nuovo clamoroso arresto, un nuovo sviluppo della vicenda, con l'arresto anche di Cosima per l'omicidio di Avetrana. Vabbè, ci fermiamo qui, c'è il giornale radio ora, voi votate il sondaggio, parliamo di scuola, vi ricordo di questa proposta di legge che prevede anche l'apertura ai privati del supporto, del sostegno ai ragazzi disabili che vanno a scuola. Che ne pensate? Ne parliamo più avanti, ora il giornale radio. 24 mattino, l'intervista. Alle 8:23 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Voglio salutare il professor Fausto Pocar. Professore, buongiorno. Buongiorno. Fa parte del Tribunale Internazionale sui Crimini di Guerra nell'ex Jugoslavia, l'AIA, tribunale che lei ha anche presieduto per 4 anni. Professore, il tribunale che dove verrà estradato, presumibilmente, Ratko Mladic, arrestato ieri in Serbia. Intanto, quando verrà estradato e perché c'è questa attesa per l'estradizione? Ma non si tratta di una vera e propria estradizione. Secondo la risoluzione del Consiglio di sicurezza che riguarda il Tribunale, le persone che vengono catturate, che sono accusate davanti al Tribunale, vengono semplicemente consegnate. Però questo non impedisce che naturalmente ciascuno Stato, prima di consegnare una persona, faccia degli accertamenti, sì, e davanti a un giudice. Ecco, quindi una procedura che può essere simile all'estradizione, anche se tecnicamente non lo è. Senta, Ratko Mladic è associato soprattutto al massacro di Srebrenica. Ci ricorda che cos'è e le accuse di cui deve rispondere? Ma dunque, il massacro di Srebrenica è stato, come accertato in altre sentenze già del tribunale, è stato un massacro in cui una larga parte della popolazione civile maschile di Srebrenica è stata uccisa, la popolazione femminile è stata viceversa deportata. Ecco. E Ratko Mladic è diciamo il responsabile, insomma, di questo, uno dei responsabili. Questo dovrà essere accertato giudizialmente, evidentemente. La storia dice però così. Secondo l'atto d'accusa è il comandante militare che ha dato gli ordini, ecco, in proposito. Senta, qualcuno ipotizzava in passato dire: beh, ma se non lo si prende si può fare anche un processo in contumacia. Questo era possibile tecnicamente per il tribunale? Il Tribunale non prevede la possibilità di processi in contumacia, anche se prevede una procedura di accertamento che non porta a una vera condanna in contumacia. Quindi un certo accertamento si sarebbe potuto fare, però è certo che è ben diverso un processo in contumacia da un processo con l'accusato in aula. Questo in certamente sì. Difendersi e portare anche le prove a discarico, in modo che ci sia una sentenza ben congegnata, ecco, ben strutturata. Ecco, professor Pocar, ovviamente i giornali italiani anche oggi sono pieni, ma come tutti i giornali internazionali, di analisi e di chiedersi come sia stato possibile che per 16 anni braccato Ratko Mladic, e addirittura è comparso varie volte in TV, nel senso in alcuni filmati, insomma tutti sapevano, molti sapevano dove si trovasse in realtà, e in realtà è rimasto libero fino a quando è stato catturato ieri. Voi vi siete dati una spiegazione su questo? Ma io direi che è certo che per un certo periodo, diciamo fino al 2000 o così, non sarebbe stato difficile probabilmente arrestarlo come altri accusati. Ecco, forse il motivo per cui gli arresti non sono avvenuti così presto è stato quello di non destabilizzare quei paesi che cercavano invece di trovare una stabilità. Ecco, oggi, passato un certo periodo di tempo, questo pericolo non sussiste più, come si è visto dalle reazioni molto, molto blande, ecco, che ci sono state alla notizia dell'arresto di Mladic. L'ultima domanda è questa: se condannato, quanto immagino sia l'ergastolo la pena? La massima pena che prevede il tribunale è l'ergastolo, sì. Per i reati molto gravi. Per i reati molto gravi, in questo caso le accuse sono di genocidio, di crimini di guerra, di crimini contro l'umanità, ecco, cioè un un atto d'accusa piuttosto articolato. Certo, c'è da dire se che tutto dovesse essere provato, probabilmente questa sarebbe la condanna. Probabilmente, certo, anche se immagino che la linea sia quella un po' come ha avuto Milosevic, per esempio, di non riconoscere la legittimità del tribunale. E questo ancora non si può dire se finché non compare davanti al tribunale non possiamo sapere qual è questo la sì, però... linea di difesa, però in effetti alcuni accusati hanno negato la legittimità del tribunale. Questo non cambia nulla. Ma non tutti, quindi è ancora da accertare. Tecnicamente questo non cambierebbe nulla, però immagino. Credo che ormai il tribunale è fin dal caso Tadic, il primo caso degli anni 90, in cui è stata contestata la sua legittimità, ha già espresso la posizione sulla legittimità del tribunale e credo che si atterrebbe ovviamente alla sua giurisprudenza precedente. Io intanto la ringrazio per essere stato con noi, Fausto Pocar, grazie, è stato anche presidente di questo Tribunale Internazionale per i Crimini dell'Ex Jugoslavia con sede all'Aia, di cui ancora fa parte, che processerà appunto Ratko Mladic dopo che verrà consegnato dalle autorità serbe. Ci fermiamo per la pubblicità e il meteo, poi parliamo di scuola nel nostro sondaggio. Una proposta di legge che viene da un sottosegretario all'economia, da due senatori per la verità, uno dei quali è il sottosegretario all'economia che sarà il nostro ospite, prevede la possibilità di aprire anche ai privati il sostegno ai ragazzi disabili nelle scuole. Che ne pensate? Votate su radio24.it oppure 800 24 0024. 24 mattino. Alle 8:34 minuti parliamo nel nostro sondaggio di scuola di una proposta di legge che riguarda tutti i ragazzi e ragazze con disabilità e il loro diritto all'istruzione nel sondaggio di oggi. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? La domanda l'abbiamo posta così: aprire la possibilità anche ai privati per quel che riguarda il sostegno dei disabili a scuola. Secondo voi è giusto? Ne vogliamo parlare? Detto che intanto i nostri ascoltatori su questa domanda si dividono, diciamo a 50-50, cioè una leggera prevalenza del no per il 53% rispetto al 47% di sì. Ne vogliamo parlare con il senatore Antonio Gentile del Popolo della Libertà. Buongiorno senatore. Buongiorno. Anche buongiorno. Sottosegretario per l'economia e le finanze ed è coautore di questo disegno di legge insieme al collega senatore Bevilacqua che adesso ci spiegherà. Saluto anche la senatrice del Partito Democratico Mariangela Bastico. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno. Si occupa, tra l'altro si è occupata, è stata anche viceministro dell'istruzione del governo Prodi. Saluto anche Donatella Morra. Buongiorno Morra. Buongiorno. Fa parte della LEDA, la Lega per i diritti delle persone con disabilità e referente per il settore scuola. Allora, sottosegretario Gentile, ci aiuti a capire, perché qualche giorno ieri La Posta, come dire, perché aprire anche ai privati la possibilità del sostegno all'istruzione per le persone disabili? Che necessità c'è? Ma che vi sono anche delle carenze rispetto ad alcune zone del paese, delle carenze organizzative, anche se vogliamo di rapporti di coordinamento tra comuni, territori. C'è insomma l'idea che le istituzioni scolastiche, che ormai stanno per diventare, sono diventate autonome, insomma per questo principio della responsabilità prevalente, possono assicurare efficienza ed efficacia all'azione educativa. E per tale ragione noi abbiamo detto non aprire ai privati tout court, ma nelle zone dove c'è carenza, se vi è un'associazione di volontariato, un onlus per dirla proprio in termini spiccioli, che può dare una mano all'integrazione effettiva al mondo dei disabili, perché no? Perché voi avete notato ci sono dei settori del paese dove c'è carenza dell'intervento del pubblico in questo campo e dunque perché non aprire al privato? Diciamo che è per questo, perché il disegno di legge è un completamento, insomma, a volte proprio per consentire nelle scuole la realizzazione di progetti con la collaborazione di privati. Ovviamente tutto ciò dovrà avvenire, non nella mia qualità, lo dico, di sottosegretario dell'economia, dovrà avvenire a costo zero, cioè utilizzando le somme a disposizione E proprio nel rispetto del principio di sussidiarietà. Cioè, ecco, questo è un aspetto importante, cioè vuol dire non è che aprire private vuol dire che questo strumento, che è uno strumento garantito, voglio dire, è un diritto da parte, voglio dire, debba però costare di più. Questi diritti li dobbiamo garantire tutti assieme. Io noto che in alcune zone del paese, specie nel mezzogiorno, insomma, questa integrazione stende ad avvenire. E quindi la risposta dice, siccome il pubblico, a volte il settore pubblico della scuola, fa fatica ad assicurare questo diritto alle persone con disabilità, si può pensare di favorire una più concreta diffusione della cultura dell'integrazione, appunto, fra le componenti. Col privato. Col privato. Privato, intendendo per privato non un privato che ha scopo di lucro, ma un privato che non ha fine di lucro. Certo, le associazioni Onlus, le associazioni che già si occupano di questo tema. Non so, aspetti un attimo però, senatore. Senatrice Bastico, posta così, cioè dice il senatore Gentile, non c'è un aggravio di costi, intanto, e si garantisce un diritto non con l'intervento pubblico, laddove l'intervento pubblico è carente. Uno certo potrebbe dire sistemate o meglio le carenze dell'intervento pubblico, però invece la soluzione proposta potrebbe essere anche, perché non aprire le Onlus, che si occupa di questo tema, private, per farle entrare nel mondo della scuola pubblica. Senatrice. A me sembrano inaccettabili proprio queste due premesse. Da un lato non si può accettare che lo Stato non faccia il proprio dovere nell'integrazione dei ragazzi disabili nella scuola, che è un diritto sancito da una legge dello Stato. Peraltro ci sono moltissime sentenze dei tribunali civili e una sentenza della Corte Costituzionale che dicono che lo Stato ha l'obbligo, e hanno obbligato il ministro Gelmini, a dare gli insegnanti di sostegno che non erano stati dati proprio per ragioni di tagli di bilancio. La seconda premessa inaccettabile è il costo zero, perché è proprio quello che le scuole oggi non riuscirebbero a reggere, il fatto di collaborare con soggetti come ad esempio le associazioni del volontariato per scaricare una parte dei costi che il Ministero non vuole più sopportare. Però l'articolo 2 di questa legge proprio lo dice. Io credo che il sottosegretario non conosca la realtà delle nostre scuole, perché vede, ci sono già tantissime scuole che fanno dei progetti di integrazione con le associazioni del volontariato, con l'associazionismo. Integrazione significa non che qualcuno viene dentro la scuola e fa supplenza al fatto che manchi gli insegnanti di sostegno, ma significa creare dei percorsi, scuola, extra scuola, attività che aiutano l'integrazione, ma non sostituiscono l'intervento dello Stato. Questa è una logica. Cioè, l'intervento dello Stato non può essere sostituito. Devo dire che però nel secondo articolo del disegno di legge è proprio questo, come ci ha detto il senatore Gentile, cioè non deve comportare tutto questo maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Quindi questa è una premessa che è scritta nero su bianco. Però io vorrei chiedere a Donatella Morra, intanto, se ci aiuta a capire le dimensioni, insomma, quanti sono le persone, si stima, nel mondo della scuola con disabilità che dunque hanno diritto a questo sostegno. Attualmente, basandosi sui numeri e sulle statistiche che vengono offerte dalle siti ministeriali, sono 94.000. 94.000, beh, no, anzi 98.449, adesso se vuole. No, no, vabbè, certo, è una cifra sui 100.000, insomma, ecco. Per inquadrare il fenomeno. Che ne pensa di questa proposta di legge? Cioè, noi ne pensiamo solo male, ecco, siamo disposti, non accettiamo, respingiamo al mittente una proposta di questo tipo, perché come ha detto Bastico, a nostro parere non si può affidare ai privati, anche ai privati Onlus, peraltro non si specifica nulla nell'articolo 1, l'accezione privati Onlus non viene contemplata nell'articolo 1 del disegno di legge dei senatori, per cui è un'aggiunta fatta in dirittura d'arrivo, ecco. Qui si dice semplicemente che non si affida ai privati qualcosa che invece compete allo Stato. Non si può affidare l'attuazione di un diritto esigibile, perché è un diritto esigibile secondo la nostra Costituzione, la normativa da ormai 30 anni, l'istruzione delle persone con disabilità in Italia. In questo senso andiamo fieri di questa legislazione, perché abbiamo precorso l'articolo 24 della Convenzione ONU, che dice proprio che è diritto delle persone con disabilità nell'avere però, essere accolte. Ma, però le chiedo, ma lei legge in questa possibile apertura ai privati una sorta di di attacco a questo diritto che è garantito, certo, in lei. No, certo, perché qua adesso le risponderà il senatore Gentile. Certo, perché privatizzare è un tentativo neanche tanto troppo nascosto di privatizzare la scuola pubblica, partendo proprio dal suo ambito più fragile, gli alunni con disabilità, e aggiungiamo noi anche quelli con altri problemi, insomma, in primo luogo i bambini con disturbi d'apprendimento. Beh, l'accusa messa così è molto forte. Senatore Gentile vuole rispondere, insomma, dire è un tentativo di privatizzare la scuola pubblica partendo dai più deboli. Io faccio politica da tanti anni, voglio rispondere alla mia collega, mi sono interessato di questi problemi anche con delle proposte di legge molto serie nel passato. Nel 2007 ho proposto e poi l'ho riproposta nella legislatura attuale anche un'autority di garanzia, appunto, che risieda nella difesa dei diritti dei disabili, che purtroppo ancora langue nelle commissioni. Quindi le voglio dire che questi problemi non li vivo soltanto direttamente, per avere anche una moglie che insegna matematica, quindi conosco bene il mondo della scuola e le difficoltà nella quale vive questo mondo. Però le voglio solo dire che in effetti quando si parla di privato, no, si tende sempre a demonizzare il politico che propone queste cose. Il mio scopo non è quello di dare ai privati servizi che devono fare, diciamo, attribuiti al servizio pubblico. Il mio scopo è quello di integrare, ove necessario, perché questa è la proposta di legge, ove necessario integrare il servizio per rendere veramente l'integrazione scolastica, sì, un cioè laddove ci sono dei problemi. Però senatore, l'accusa che viene fatta è questa: ma perché se ci sono dei problemi perché non sistemare nel pubblico laddove ci sono delle carenze, ci possono essere, eccetera? Cioè questo è lo scatto in più che credo la senatrice Bastico non ha capito. Perché non sistemare all'interno del pubblico queste carenze laddove ci sono? Queste carenze, se il pubblico non arriva a sistemarle, ipotesi, prendiamo le zone del Mezzogiorno, sì, in cui ci sono comuni sciolti per mafia, ci sono questioni aperte sulla legalità, oppure disinteresse delle amministrazioni locali, perché lei sa bene che il disabile ha il diritto di chiedere le istruzioni proposte con un progetto individuale. Molte volte questo progetto, per realizzare la piena integrazione nel tessuto familiare, nel mondo scolastico, nel mondo formativo, lavorativo, non viene applicato compiutamente. Vi sono delle carenze oggettive. Se vogliamo parlare poi del mondo del lavoro, non ne parliamo proprio, perché questi disabili sono spesso discriminati, le graduatorie non vengono rispettate. Io non dico queste affermazioni gravi da uomo di governo, lo dico come uomo che vive la realtà, sì, di questo, sì, paese. Allora, per andare incontro a queste difficoltà, lo scopo è solo questo. Non c'è un privato che deve lucrare su questo servizio. Miglioriamo il servizio pubblico, per carità, ma facciamo in modo che il privato, laddove è necessario, perché demonizzarlo, lei dice, no? Perché se può aiutare a favorire l'integrazione più compiuta. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Allora, il 54% dei nostri ascoltatori dice di no, insomma, quindi una prevalenza leggera per il no a questa proposta di legge. Ma sentiamo che ne pensa Luca dalla provincia di Roma. Ci ha chiamato all'800 24 00 24. Luca, buongiorno. Dunque, brevemente, io ho tre bambine nella scuola pubblica di Roma, scuola statale, servizio di refezione scolastica in autogestione. Il disavanzo della gestione 2009-2010 era di circa 26.000 euro. Questo disavanzo era spendibile secondo dei criteri orientativi dati dal Comune di Roma, per la precisione via Capitan Bavastro, per essere da dicembre 2010 il costo per i genitori è aumentato per la gestione mensa per ogni bambino. Però del 100%. Però cosa c'entra, mi scusi, cioè, voglio dire, il disavanzo di questa gestione mensa, perché una parte non può essere immaginato di devolverlo al ripristino. Da quest'anno il 50% degli insegnanti di sostegno, c'è stato un taglio del 50% degli insegnanti di sostegno. Ecco, perché lì non devolvere una parte del disavanzo, dell'avanzo mezzo dell'anno precedente. Va bene, questa è la sua proposta, ma che ne pensa dell'idea di laddove ci sono delle carenze del pubblico, perché ci sono mille motivi, il senatore propone, perché non allargare l'orizzonte e vedere anche dei privati, delle onlus che possono integrare questo sostegno? Lei come la vede? Credo che sia prima di tutto va mirato al ragazzo disabile, perché se il disabile non ha l'insegnante deve rimanere a casa, qualsiasi sia la modalità, però perché non esperire prima di tutto modalità che rientrino nella gestione del pubblico, ovvero okay. Tutti i soldi che avanzano, perché non integrarli? Non andare a integrare. Quindi prima vedere il pubblico, è molto chiaro. Grazie Luca. Voglio andare a Verona da Massimiliano. Buongiorno. Buongiorno a tutti. A me va bene la presenza del privato nel momento in cui si vede che il pubblico ha delle carenze. Però io faccio un'altra domanda. Noi abbiamo il numero di insegnanti più alto in Europa in relazione agli alunni. Prima naturalmente mi farei questa domanda: dove sono questi insegnanti? Ed eventualmente li distribuisco meglio. Allora vado a sopperire una mancanza. Ma forse lei pone proprio il punto sulle quelle carenze che il senatore Gentile dice, cioè il pubblico ha delle carenze oggettive, verificate, riscontrate, alle quali è difficile poi porre mano. Ecco perché è venuta l'idea di dire apriamo anche i privati. Esatto, qui non c'è una mancanza, sono distribuiti male, tutto qui. Va bene, grazie Massimiliano. Vorrei dalla senatrice Bastico una replica. Quando il senatore Gentile dice: guardate, non vogliamo privatizzare un diritto, non vogliamo far lucrare nessuno, non vogliamo far pagare di più, vogliamo semplicemente, laddove ci sono delle falle, perché demonizzare l'apertura possibile a onlus, a privati? Cioè, neanche posta così, insomma, le pare accettabile come proposta. Guardi, il senatore Gentile parla di carenze degli enti locali, comuni, eccetera. Innanzitutto questo è un compito dello Stato, quindi delle 98.000 docenti di sostegno, sì, che sostengono 188.000 ragazzi disabili, sono un compito primario dello Stato, quindi lui che è sottosegretario lavori nella direzione del miglioramento. La seconda cosa è, ed è anche una domanda, è questa: le scuole sono piene di crediti, quindi devono avere dei soldi dallo Stato, 180.000 euro mediamente ogni scuola, non riescono più a pagare i supplenti, fanno contribuire i genitori anche per il funzionamento corrente, i supplenti, il materiale didattico, le fotocopie, la carta igienica, eccetera. Mi domando, ma come la scuola potrebbe anche dare un contributo a una onlus per migliorare l'integrazione dei ragazzi? Non hanno un euro a disposizione, e allora anche qui si tratterebbe ancora una volta di scaricare sui genitori, già genitori in grandi difficoltà perché hanno dei ragazzi con delle gravi problematicità, dei costi. Cioè l'idea di costi zero lei non ci crede, l'idea di costi zero non la vede fattibile. Non è possibile, non è fattibile, perché ogni progetto ha bisogno di un sostegno economico e nella legge è chiaro, si scarica sull'autonomia scolastica. Ma l'autonomia scolastica ha ricevuto un taglio dal Ministero della Pubblica Istruzione, tutte le scuole lo sanno, assolutamente pesantissimo, per cui non si riesce a pagare neanche l'esistente, ripeto, non vengono più nominati i supplenti proprio perché non ci sono i fondi, e poi lo sappiamo che i genitori contribuiscono in tutti i modi al funzionamento corrente della scuola, spese che dovrebbero essere sostenute direttamente dal Ministero. Allora, richiamare fondi dell'autonomia scolastica e richiamare una cosa che non c'è. Donatella Morra, lei ha fatto un'accusa molto dura al senatore Gentile, che è qui, l'ascolta, dire, cioè voler privatizzare la scuola pubblica partendo dai più deboli. Insomma, ha sentito il senatore Gentile? Cioè, l'approccio mi sembra in realtà diverso, almeno nello spirito del senatore. Cioè, siamo andati il 19 a Milano a manifestare con grande fatica, perché tra dei genitori portare dei figli carrozzellati o anche dei figli con disabilità psicofisica non è facile. Siamo andati e abbiamo protestato contro i tagli sul Fondo Nazionale Politiche Sociali, Fondo per la Non Autosufficienza. Andremo a protestare a Roma, questa volta veniamo a Roma, come abbiamo fatto per le revisioni dei criteri di invalidità, perché è una cosa iniqua, cioè non si può affidare alla buona volontà quello che ci spetta di diritto. C'è una convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità che è stata recepita e ratificata con la legge 18 del 2009 dello Stato italiano. Prima ero emozionata e ho parlato di 94.000, erano gli insegnanti di sostegno. Sono 188.000 i nostri figli a cui lo Stato deve dare per diritto qualcosa che gli spetta per essere alla pari con gli altri, per partire alla pari con gli altri. Lei dice non accettiamo che ci sia il privato che si debba. Ma soprattutto questo fai da te, cioè lei mi dica, questi esperti che dovrebbero venire dall'esterno anche da onlus, chi controlla che cosa? Cioè questi esperti che competenze hanno? che profilo professionale, che compiti avranno nel stabilire, nel compilare dei documenti di programmazione. Beh, immagino che se si facesse un iter di questa legge ci sarebbero anche dei controlli. Perché non si inventano degli esperti dall'oggi al domani. Cioè, se questa legge, se la legislazione italiana è di 30 anni, a qualcosa sarà servito. Se le persone, pensi piuttosto lo Stato a formare all'inizio tutti gli insegnanti curricolari, allora la si smetterà di sottolineare soltanto il binomio insegnanti di sostegno all'uno disabile. Se oggi noi disperati chiediamo a più riprese, anche facendo ricorsi collettivi come abbiamo fatto a Milano come Leda con un gruppo di genitori coraggiosi, se noi chiediamo più insegnanti di sostegno non è perché vogliamo l'insegnante incollato al figlio, noi semplicemente vogliamo che ci siano delle persone preparate che predispongono l'accoglienza. Scusi, il senatore Gentile è della stessa corrente politica del ministro Gelmini. Sì, certo. Allora si vada a rileggere le linee guida per l'integrazione dell'alunno disabile. Nelle linee guida c'è scritto che non è un incidente di percorso la presenza dei nostri figli a scuola. No, ma questo nessuno l'ha messo, ecco, anche ma in dubbio. Siccome sembra quasi che estemporaneamente si trovino delle soluzioni dettate dalla casualità. Io però riteniamo che l'accoglienza deve essere programmata. Gli insegnanti curricolari debbano essere formati. Questo è stato chiarissimo. Mi devo fermare qui perché il tempo è scaduto. Grazie a Donatella Morra della Leda, referente scuola della Lega per i diritti delle persone con disabilità, e il senatore Antonio Gentile del PDL e la senatrice Mariangela Bastico del PD. Ci fermiamo. Alessandro Longoni e Elisabetta Fusconi in redazione, con Valeria Bernardi in regia. Alessandro Longoni che vola? Può? Chissà, chi lo sa, vola. E ci troviamo lunedì mattina alle 7:20. Noi ora la linea Oscar Giannino.